Tutto chiaro? Proviamo. A. Ascolta e controlla. Mario? Sì? Che giorno è oggi? Mercoledì, perché? Vai in comune stamattina? Sì, perché? Puoi andare all'ufficio anagrafe e ritirare il mio certificato di residenza? Mi dispiace, ma quando avrò ritirato i documenti del signor Rollo all'ufficio urbanistica, dovrò correre in ufficio, perché ho appuntamento con lui poco dopo. E se arrivi un po' prima? Ada, è già tardi. Sono le 9:15 e sono ancora qui a casa. Come faccio? Ah, va bene. Ci sei a pranzo? Penso di no. Se non ci sono cambiamenti, pranzerò con l'architetto Ravi. Quando avrò chiamato l'architetto, ti telefonerò, così... Anzi, no. Ci vediamo verso le 11:30 al bar e beviamo qualcosa insieme. Vengo al bar sotto al tuo ufficio, ok? Ok, alle 11:30 va benissimo. In ogni caso io non pranzerò a casa. Quando sarò uscita dal mio ufficio, accompagnerò la nonna da Luisa e mangeremo insieme. Ma non devo pensarci io? E quando, secondo te? Prima vai in comune. Quando avrai finito in comune, andrai in ufficio. Poi verrai da me. Dopo che sarai venuto da me, andrai a pranzo con l'architetto e... Vuoi dirmi quando avrai tempo per la nonna? Verso le 4:30. No, questo orario non va bene per la nonna. Non ti preoccupare, vado io. E se invece torno a casa per pranzo? Troverai il pranzo in congelatore.